tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Gesù Cristo, tanti auguri a te. Allora oggi è il Santo Natale. Il gran varietà religioso comincerà alle ore 9:30. Il cappellano Charlie vi farà sapere come il mondo libero riuscirà a far fuori il comunismo. Con l'aiuto di Dio e di alcuni Marines. Dio ci si arrapa con i Marines, perché noi ammazziamo tutto quello che vediamo. Lui fa il suo mestiere, noi facciamo il nostro. E per dimostrargli il nostro apprezzamento per averci dato tanto potere, noi gli riempiamo il cielo di anime sempre fresche. Dio è arrivato prima del corpo dei Marines, e quindi a Gesù voi potete offrire il cuore, ma il vostro culo appartiene alla nostra arma. Signorine, sono stato chiaro? Sì, signore! Non ho sentito niente! Sì, signore! Fuoco alle polveri! Fuoco alle polveri! Radio Bomba! Buonasera e benvenuti all'ottava puntata di Fuoco alle Polveri qui su Radio Wombat. 8 come le zampe di Sleipnir, il fantastico cavallo di Odino. E chissà afferrare tutte e 8 le zampe, caro. Ciao Lore. Ciao Guido, ciao. Ce l'abbiamo fatta incredibilmente, ci sentirete soltanto in podcast purtroppo, perché abbiamo dei problemi irrisolvibili, ma nonostante ciò non mancheremo di portare il nostro apporto pazzo. Pazzo, sì, ma oggi è per la neve che non funziona niente. Sì, mi sa di sì. Mi sa di sì. Senti, niente, già, ci siamo. Siamo qui con un sacco, un'altra volta con un sacco di gente, in maggioranza calabresi. Attenzione, sì, oggi sì. Che comunque è un onore. E iniziamo perché abbiamo anche tempi un po' così. E si può partire facendo un piccolo resoconto del Toto Morti, il grande concorso di Fuoco alle Polveri. Sì, quello di punta. Quello, allora, di cosa ci hanno mandato diverse squadre, no? Diverse squadre, un sacco di squadre. Le leggiamo velocemente? Sì, velocemente. Allora, Ivan ci ha mandato Pappalardo e Paolo Villaggio. Due ne ha mandati, perché se la sente è sicuro. Pappalardo è sicurissimo. Sì, vabbè, lasciamo perdere Pappalardo. Giuliana ci ha mandato la regina Elisabetta, Maurizio Costanzo e Gino Paoli. Ok. E Marco ci ha mandato Emma Bonino, Stephen Hawking e Piero Angela. Non toccatemi Piero Angela, per favore. Ok. Irene ci ha mandato la regina Elisabetta sempre, Fassino, attenzione, e Vittorione Cecchigori. Ah. Elena ci ha mandato Renzo Arbore e il nostro amato Ceccherini, Massimo. E Ilenia, Maria De Filippi, Mara Venier e Rita Pavone, solo donne della televisione, sì, italiana. Bene. E alle 9000 il Papa Cattivo, il Papa Buono e Giorgio Napolitano. E Pietro Ratzinger Gentiloni non è... Ratzinger e Gentiloni, Pietro, è vero. Cominciamo ad avere discrete squadre, eh? Tante squadre. E noi ancora in tutto ciò non abbiamo detto il regolamento. Perché non abbiamo detto il regolamento? Perché sì, dici te. Perché ancora fondamentalmente non abbiamo deciso nessun regolamento. No, è un casino, ragazzi, come fare il regolamento. In generale nella nostra vita ancora non abbiamo deciso. Quindi, nessun però regolamento. Però promettiamo che lunedì prossimo avremo il regolamento definitivo. Definitivo, forse sì. Ho sbagliato a dire promettiamo questa cosa. Non promettiamo niente. Vabbè, forse dai. Forse sì, forse no. Forse sì, forse no. Intanto diciamo che comunque per vincere bisogna azzeccare i morti, questo è sicuro. Bene, okay. Ci diamo un po' di calore e carica col primo pezzo della giornata. Dai. Quindi regia, mandaci il nostro fantastico pezzo, Fitz Pleasure degli Alt-J. Oh, yeah, yeah. Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra in your side we is pleasure boom she pleasure. Come mai non ti abbiamo mai visto? Oh, beh, io sto parecchio per conto mio. Dormo sempre. Mi drogo abbastanza. Eccoci. Eccoci. Questa era Fitz Pleasure degli Alt J. Abbiamo mandato un po' questo pezzo perché... Perché ci piace. Perché ci piace, sicuramente. E riprende un po' delle tematiche dal romanzo Exit to Brooklyn di Hubert Selby, che è Junior, che è un romanzo molto dibattuto in America, perché affronta dei temi molto, diciamo, un po' scabrosi, ma scabrosi per i ben pensanti, quindi scomodi, e quindi ci sembrava giusto mandare, visto che noi... Io ti ascolto intanto. Sì, sì. Parliamo anche di cose non comuni e che non tutti dicono, e quindi ci piaceva essere un po' controcorrente anche con il testo di questo pezzo. Buono, direi ottimo. E che dobbiamo fare? Se qui siamo un po'. Siamo tanti comunque anche oggi. Sì. Però comunque mancano un po' di persone all'appello. Le salutiamo. Sì, c'è la grande assenza, e questa volta dobbiamo assolutamente salutarlo, che è Andre, il nostro regista. Che è andato a fare il fenomeno. Sì. Ad Amsterdam. Ad Amsterdam. Beato bene, lui. Bene. beato lui. Quindi lo salutiamo davvero di cuore. E abbiamo per lui pronto anche fra poco una piccola sorpresa. Dici, Andrea, ricordati degli amici. Non ci fa sta un pensiero. Scrivici una lettera. Dai, scrivici una lettera. Dai, Andrea, ti prego. Vai. Ciao Andre, buon viaggio. Ciao Samir, anche lui ti saluta Andre. Ciao Andre, sì. Molto bene. Vuoi aggiungere qualcosa, Lore? Guarda, no, direi che si può anche mandare il pezzo che dedichiamo il regalino. Andre. No, se vogliamo salutare anche gli altri. No, gli altri no, vaffanculo. No, solo è vero, salutiamo salutiamo anche Nico, che oggi non c'è, Marchino, che oggi non c'è. E ci saranno sicuramente settimana prossima. Tu fai troppe promesse per settimana prossima. Sa cosa succede da qui a settimana prossima? Hai ragione. Principino. Forse però il principino torna. Va bene, quindi i Just Married con Amsterdam. Figlio a 18 anni vuole andare ad Amsterdam, ad Amsterdam. Chissà cosa gli interessa, chissà cosa cercherà ad Amsterdam. Sono sicura che lui vuol visitare i musei, le cattedrali giganti, le mostre importanti. Sono certa, lo so, vedrà anche i quadri di Van Gogh. Mamma, dammi 100 lire e voglio andare ad Amsterdam. Ad Amsterdam. Con i ragazzi della curva, con gli amici giù del bar. Ad Amsterdam. Ma tieni amore un milione e vedrai, lo spenderai bene. Dentro ai musei, nelle mostre o nelle pinacoteche. Costa molto, lo so, vedere i quadri di Van Gogh. Viaggio ad Amsterdam. Ad Amsterdam. Che ragazzo eccezionale, già ci vuole ritornare. Ad Amsterdam. Ad Amsterdam. Tutti i ragazzi vanno ad Amsterdam. E un motivo forse ci sarà. Ma quel motivo mamma non lo sa. Amsterdam. Amsterdam. E questi sì, erano i Just Married che hanno dato un po' tutto in questo pezzo. In questo pezzo, anche perché poi dopo hanno fatti sciolti. Due e poi si sono sciolti. Un gruppo livornese, però, veramente grande, è nel nostro cuore. Forse li hanno arrestati. De boia. Ok. Bella, questa era la dedica un po' a chi, appunto, a chi è andato a godersi la città Amsterdam. Dei fiori. Probabilmente la città farà chiacchissimo lì. È Sanremo la città dei fiori. Sì, mi sa che è Sanremo. È Sanremo, vero. Vabbè, direi che è il momento di far suonare il nostro amico Pizzo, che è qui, nonostante mille peripezie. Oh. Ciao, Grippo. Buonasera. Nonostante tutti i problemi del mondo, siamo qui a combattere e suonare. Eccomi qua. Ciao ragazzi, ciao. È un po' un casino oggi, non ho fatto granché i suoni, è stato un po', insomma, un bello smattio. Però volevo comunque proporvi un pezzettone di Brussone, esattamente. Perché chi è Brussone? Dillo Brussettone, a tutti. Brussettone Springsteen. E nonostante sia un The gringo, boss. A noi ci piace tanto, tanto, tanto, tanto, parecchio. Perché è la persona che, boh, non so, io posso dire, da live è la persona degnissima. Che mi ha dato di più in assoluto. Assolutamente. Perché, boh, anche a me. Dà veramente tutto, tutto, tutto, tutto, tutto quanto. Il pezzo si chiama Atlantic City, ve lo fo e via. Poi dopo magari vi dico due cosine su Atlantic City. Cioè su questo pezzo qua, su Atlantic City sono un tubo io. Dice un posto dove vanno a fare il bagno di base. Bagno e giocare duro anche, sì, giocare anche duro anche al slot machine. Anche casi no, anche sì. Casi no, sì. Buon bagno. Grande, dagliele Pizzo. Suono con la chitarra. Fa. Where they blew up the chicken man in Philly last night. Where they blew up these house too. Down on the road, they're getting ready for a fight. Gonna see what the racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. It's gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission hanging on by skin of his teeth. When everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Yo! Well, I get a job and try to put my money away, but I got that no honest man can pay. So I drew what I had from the central trust, and I bought us two tickets on the coast of the bus. When everything dies, baby, that's a fact. Baby, everything that dies some way comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Meet me tonight in Atlantic City. Love me, you're dying, and love may be cold, but you forever I'll stay. We are gone out where the sand are standing to go. Put on your shucking babies, cause the night is getting cold. And if everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Now I've been looking for a job, but it's hard to find. Down there is just winners and losers that don't get caught on the broad side of the line. I'm tired of coming out on the losing end. So last night I met this guy, I'm gonna do a little favor for him. Everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Meet me tonight in Atlantic City. Meet me tonight. City. Allora, nulla, andavo a spiegare, questo è un pezzo dell'82, l'album era Nebraska, e se no, boh, vabbè, ora, a parte dal mio inglese probabilmente non avrà capito un cazzo nessuno lo stesso, anche chi parla l'inglese. Però, soprattutto chi parla l'inglese. Soprattutto chi parla l'inglese. Però di base questo è un pezzo d'amore, diciamo, in linea di massima, che parla di questa coppia. La quale pianifica un incontro in Atlantic City, che è appunto la città dei casinò e della riviera, insomma, una Rimini con i casinò, praticamente, certo. Da quanto ho capito, un po' decadente, vedendo un po' le foto. E niente, questa è una storia di amore e di malavita, perché anche all'inizio si parla di questo Chicken Man, e questo Chicken Man era Philip Testa. Si chiamava così, ed era un boss della mafia a Filadelfia, morto per l'appunto l'anno prima in cui dell'anno in cui è stata scritta questa canzone, per una bomba in casa. Gli hanno messo una bomba in casa i suoi mafiosi nemici, insomma. Male. Esatto. E in questo disco in questo pezzo si fa riferimento a questo incontro che dovrà avere con questa ragazza il protagonista, ma anche al fatto che dovrà fare un piccolo favore a un uomo, e in questo si fa riferimento, diciamo, a una storia malavitosa, e quest'uomo sta per andare a commettere un crimine che non si sa nemmeno qual è, e si fa mille domande, insomma, ha mille desideri, mille problemi da risolvere, ma insomma in qualche maniera non ci riesce, ecco. E niente, questo era il pezzo, un pezzo di tristezza, povertà, amour e mafia. Bellissimo, grazie Pizzo, davvero, come sempre. Un bel cocktail, sì, assolutamente. Una bella paranza. Oggi diamo dei cocktail strani, ma va bene così. Oh yeah. Sì. Senti là sotto cosa ci manda la regia. C'è magia. Sì. Ma che magia si la regia. Si gode praticamente. E allora, dimmi tutto tesoro. Andiamo avanti con le nostre rubriche. Abbiamo e con le nostre novità, perché comunque sì. Oggi è una giornata un po' strana, però ci sono comunque alla fine un sacco di novità. E, tra cui il tasso che non salutiamo il Pizzo. Che sì, poveraccio. Certo. Ciao. Grazie Pizzo. Ciao belli. Noi eravamo passati all'argomento successivo. Abbiamo un po' di fuoco sotto il culo. E statemi a buono voi nel frattempo. Non me la sono presa male. Sicuramente. Poi ci penso io la prossima volta. Noi adesso mandiamo, attenzione. Sì, sì, spiegami. La spiegami. Sigla sì, di Legge Tasso. Ok. Però non Legge Tasso. Ok. Ok. Va bene. Cose sorprese, strane sorprese, oggi abbiamo sorprese. Detto cocktail strani, quindi e quindi il tema. Certo. Ok. Dai. Sigla. E ora e ora legge Anita. E Moni, lei è Anita. Anche con la traduzione, Anita. Ciao, oggi vi leggo un pezzo dall'ontologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, Il suonatore Jones. La terra ti suscita vibrazioni nel cuore, sei tu. E se la gente sa che sai suonare, suonare ti tocca per tutta la vita. Che cosa vedi? Una messe di trifoglio o un largo prato tra te e il fiume? Nella meliga e il vento, ti freghi le mani, perché i buoi saranno pronti al mercato. O ti accade di udire un fruscio di gonnelle, come al boschetto quando ballano le ragazze. Per Cooney Potter una pila di polvere o un vortice di foglie volevano dire siccità. A me pareva fosse semi testa rossa quando fai il passo sul motivo di Tour-Allure. Come potevo coltivare le mie terre? Non parliamo di ingrandirle, con la ridda di corni, fagotti, ottavini, che cornacchi e petti rossi mi muovevano in testa, e il cigolio di un mulino a vento. Solo questo? Mai una volta diedi mani all'aratro, che qualcuno non si fermasse nella strada e mi chiamasse per un ballo o una merenda. Finì con le stesse terre, finì con un violino spaccato e un ridere rauco e ricordi e nemmeno un rimpianto. meraviglioso questo pezzo. A letto Anita. A letto Anita. A letto Anita. A letto Anita. All'aiuto Anita. A letto Anita. In un vortice di polvere gli altri vedevan siccità, a me ricordava la gonna di Jen in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. La gente sa e la gente lo sa che sai suonare. Suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Finì con i campi alle ortiche, finì con un flauto spezzato e un ridere rauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto. Rientriamo da Andrea allo Ska, passando per chissà cosa. Il passo è breve. Il passo è breve. Il passo è molto breve. E, Ringraziamo Anita per averci letto questa poesia di Edgar Lee Master e il ed André per ci aver scritto un pezzo sopra. Che facciamo? Ringraziamo sempre che dobbiamo fare. Per qualsiasi pezzo anche la Fernanda Pivano per averlo tradotto. Tutti, anche Cesare Pavese per averlo Pavese. Illegalmente importato dagli USA durante il fascismo. Tutte queste persone. Morgan per averlo anche rifatto. Morgan. Anche Morgan, che grande. È tra l'altro in una lista del Toto Morti. Vogliamo dirlo a Morgan. Occhio Morgan. E, benissimo. Ci sta dai. Ascoltando, secondo te? Sicuramente. Lo salutiamo. E, no, quest'ora dice che dorme, poi la notte ci riascolta in podcast. Già. E, noi adesso, cioè, volevamo dire. Che dobbiamo dire? Dobbiamo dire della di una nuova, di alcune nuove trasmissioni, sì, che partiranno su Radio Wombat. E una di queste è Soul Time, che sarà il mercoledì alle 19. E penso che proporrà tutto il mondo soul, cioè pezzi soul e discorsi intorno a quel mondo lì. Tra l'altro sabato 4 febbraio ci sarà un evento all'Emerson musicale da non perdere, da assolutamente non perdere, e di cui vi daremo poi i dettagli più quando saremo più vicini. Sì, sì, e comunque troverete sicuramente su Facebook tutto, su Facebook, certo, tutto. Tranquilli. Però ci sarà un altro programma che tra poco partirà e abbiamo qui direttamente quello che lo terrà, questo programma, quello che se l'è cacciato dal cervello, e quindi facciamo dire a lui direttamente di cosa si tratta. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Io sono Iovo. Praticamente vi vado a dire più o meno quello che sarà il mio problema e il mio problema è il programma nuovo. Grande Iovo. Che appunto parlerà della musica underground italiana. Si chiamerà Music Vox Populi. C'è già la pagina Facebook attiva. Abbiamo già il primo artista che il prossimo lunedì, salvo vari imprevisti, dovrebbe partecipare direttamente con noi. Perché appunto le puntate si svolgeranno con una canzone iniziale solitamente dell'artista, poi quattro chiacchiere con l'artista, le canzoni che comunque l'hanno aiutato ad arrivare lì, suonare, okay. E poi si continuerà sempre a fare quattro chiacchiere con l'artista, a farlo conoscere un pochettino di più, queste cose qui, insomma. Ogni settimana cambierà l'artista, ovviamente, si aprono i bandi per essere selezionati a questa nuovo podcast, diciamo, di Wombat Radio. Quindi. Per contattarti la pagina Facebook, allora. Sì, c'è già una pagina Facebook. C'ho anche, ho appena attivato da poco, diciamo, un indirizzo email che si chiama proprio musicvoxpopuli2017@gmail.com, dove se volete fare un pochettino più professionali potete mandarmi direttamente un'email e io poi da là prenderò le vostre iniziative, vi contatterò e vediamo un pochettino come e se si può fare qualcosa, soprattutto. Poi comunque c'è anche l'indirizzo proprio della radio, che sì, è postawombat@insiberia.net, anche quello nel caso. Sì, nel caso. Se, non so, se non riuscite. Siamo abbastanza reperibili, appunto. Sì, direi che non avete scuse. Quindi no, se volete dar voce a... Sì, se volete che la vostra voce sia in giro, che si sente un pochettino di più rispetto ai vostri amici, genitori o familiari in generale, passate anche da qui. Grazie, Wombat, Wombat. Grazie. A voi. Apprezzo, ci sentiamo. Ciao, Iovo. E adesso io volevo mandare un pezzo che è di Luke Winslow King. Con, sì. C'è presente, sì. E il pezzo è un live insieme a Roberto Luti, che invece è un chitarrista livornese. Questo gruppo invece americano è di New Orleans. E nasce da appunto un incontro tra questi artisti proprio a New Orleans, dove Roberto Luti, appunto chitarrista livornese, è andato a vivere per 10 anni da clandestino, e cioè senza nessun documento, e è stato appunto 10 anni a New Orleans da clandestino. È stato espulso, dopo che a un certo punto si è acchiappato, è stato espulso, è tornato in Italia, continua a suonare, e questo pezzo appunto è nato dalla collaborazione musicale in New Orleans. Oh, tell me you love me. Girl, you love me, I feel it in my heart, in my loving heart. Tell me you love me, baby. You love me, you do. Hold me in your arms, hold me in your arms, hold me in your arms with your loving charms. Hold me in your arms, yeah, like that. In your loving arms, all night long. Yeah. Never let me go, never let me go, never let me go. Babe, I need you so, girl, I need you so. Never let me go, don't ever let me go, not for nothing. Oh, feel it in my heart, feel it in my heart, feel it in my heart. Babe, we'll never part, feel that in my heart. My loving heart. Yes, I love you and I don't care what you do, don't care what you do. I love you, baby, you know that's true. Hey! Tell me you love me, yeah, you love me. Girl, you love me, I feel it in my heart, in my loving heart. You love me, baby, you love me, you do. Grazie mille, grazie a tutti, a presto, grazie. Grazie a tutti. Ora puto, ora puto, ora puto, ora puto, dai, basta. Che è muy machino, amo il machino, marica nena, ma sei un puttino. Che è muy machino, amo il machino, marica nena, ma sei un puttino. Che è muy machino, amo il machino, marica nena, ma sei un puttino. Che è muy machino, amo il machino, marica nena, ma sei un puttino. E senza puto non si sta, praticamente. Quanto ti foga. Per forza. Beh, sì. Senti, ci siamo? Ci siamo, ci siamo. E, sì. Ci dici un po' cosa accadrà in città nei prossimi giorni? Prima una cosa, lo sai che oggi è il Blue Monday? Cioè, lunedì blu. Il lunedì blu. Ossia, quello che secondo alcuni tipi inglesi autorità, secondo qualche autorità, dovrebbe essere il giorno più triste dell'anno. È il terzo lunedì di gennaio, dovrebbe essere il giorno più triste dell'anno. Infatti non stiamo andando in streaming, quindi sa quante persone tristi. È vero. Cazzo, vabbè, scusateci, non volevamo aumentare la vostra infelicità, ma speriamo che il podcast sia presto disponibile, così da potervi rallegrare, se non il lunedì, il lunedì notte, martedì mattina e tutti gli altri giorni a settimana. Sì, assolutamente. Allora, andiamo a raccontare un po' di eventi. In realtà io ne ho uno da segnalare. Segnala, vai. Che è l'evento che si terrà in Polveriera giovedì 19, organizzato dai No Borders Firenze. Inizierà alle ore 18 con un dibattito sulla situazione a Ventimiglia, l'attuale confine franco-italico. E ci sarà poi una proiezione, sempre legata a Ventimiglia. E poi alle 20 apericena, birrette a prezzi super popolari, ci dicono. E alle 21 un concerto ska punk con i Causa. Quindi non mancate assolutamente. Sia perché, dimmi. Riepilogo, giovedì, giusto? Giovedì, sì. 19. 19 alle 18 ore. Bene, a posto. Poi dai, no, basta. La botta risposta. No, va bene, così. Va bene, tanto il resto poi si è capito. Bene, quindi vi invitiamo tutti ad essere in Polveriera giovedì 19 ore 18. Poi ci sarà un altro evento il giorno dopo, sempre là in Polveriera, quindi il venerdì 20. Sì. L'evento è Panico Totale, sarà la presentazione di un libro che pubblicato penso da poco tempo, penso un mesetto all'incirca, mm-hmm. che raccoglie un po' le esperienze dell'evento Panico Totale, che è stato dei momenti di street art, writing, musica avvenuto a Pisa tra il 96 e il 2000, e questo libro ripercorre un po' quello che è successo. Però io direi di non andare avanti a spiegare questa cosa, perché forse tra un po' ci viene qualcuno a spiegarci meglio, proprio di questo, sì. E quindi aspettiamo un attimo, poi se no ve lo diciamo noi, ve lo diciamo noi dopo. Assolutamente. Andiamo adesso con un pezzaccio e dopo il magico e inconfondibile In Soldoni. Ah. Sale risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando sulla riva verrai, quando la burrasca all'ardo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si torna nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Prima nel pianto si abbandonano gli occhi allegati del sale, per stendermi al sole. Prima nel pianto si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele. Vai sul serio. Lo hai detto, hermano. Non si scherza con Jesus. Ah, oggi ti vedo serioso. A cosa stai pensando? No, aspetta, intanto volevo precisare una cosa e tuo socio a Lorenzo. Precisa. Sì, se mi richiami Maggio un'altra volta ti tolgo la parola per sempre. A questo punto forse lo farò tutte le volte. Bene, ti sei fatto un nemico. Bene. Insieme a tutti gli altri, mi sa che mi schiero con gli Ultras. Il prossimo insulto lo farò su di te. Benissimo. No, a parte le battute. No, oggi voglio essere serio. Oggi volevo parlare di progresso civile, sociale. È giunto il momento di evolvere un minimo il mondo in cui viviamo. Ovvia, quindi oggi si parlerà di un argomento importante. Certamente. Guerra, immigrazione, razzismo. No, queste sono ciance. Ciance? Di cosa vuoi parlare allora? Del più grande inganno in cui gli esseri umani, oggi come oggi, sono costretti a vivere fin da quando sono nati. Ah, quindi vuoi parlare di religione? No, della mattina. Come? Guarda, io ancora non ci credo che siamo nel 2017 e ancora la gente si organizza la vita dalla mattina. Presto per giunta. Ma è mai possibile, a prescindere che uno lavori, studi, c'è una visita, devi passare da un ufficio, uno sportello, si deve svegliare presto la mattina? Ma chi l'ha inventata sta cosa? È da malati! Aspetta, cosa vorresti dire? Ma nulla, è che la mattina voglio stare a letto a rigirarmi intanto, a godermi un po' di dormiveglia. Non è una cosa poco. Prendere come punto di riferimento tutti i giorni la mattina è alienante. Non puoi condurre una vita intera così. Perché no? Ma come perché no? Innanzitutto perché la mattina uno tiene sonno. Ma secondo te quante sono le persone appena destate dalla sveglia hanno voglia di alzarsi? E invece no, perché ti sei messo in una condizione di dover calcolare il tempo al minuto, ti svegli all'ultimo, fai le corse per uscire di casa e manco c'hai il momento per capire che stai al mondo. A prescindere da quello che devi fare durante la giornata, nulla sarà mai importante come un buon risveglio. E per le cose, e per fare le cose bene, le cose vanno fatte con calma. Vabbè, in parte capisco il ragionamento, ma mi sembra che stiamo parlando un po' del niente. Ma non è vero, non è vero, perché questa abitudine ti dà una visione limitata della giornata e della vita in generale. Cioè io lo capisco, ci sono cose che hanno dei tempi naturali e devono comprendere inevitabilmente la mattina. Ma non siamo mica tutti agricoltori o panettieri. O pescatori. Pure, queste sono per me categorie speciali. Magari in un futuro meriterebbero un occhio di riguardo, delle agevolazioni. Ma tutto il resto. La mattina deve essere dedicata a se stessi. Riprendersi un attimo per capire se sta iniziando un nuovo giorno. Sentirsi un attimo e si sta a capire quali sono effettivamente i bisogni che ci metteranno in moto. Nel mentre ti sei fatto un caffè, arrivi agile agile al pranzo. Fatto questo, divertiti, usa la tua vita come vuoi, sicuramente sarà una buona giornata. Non sarebbe male. I tempi più dilatati, a misura d'uomo. E non è solo questo. Ma guardiamolo anche da un punto di vista più ampio. La gente uscirebbe di casa più rilassata e magari scoprirebbe il significato del semplice buongiorno. Se sei d'inverno le temperature sono più accettabili e magari la mattina riscopri come piacere estivo. Le giornate lavorative dimezzerebbero, quindi... E se vuoi mantenere la produzione, quindi toccherebbe assumere più gente. Si scatenerebbero delle dinamiche e possono solo migliorare la società, senza considerare la cosa più importante. Cosa? Che non ti becchi più i vecchi. A far la fila, alle poste, all'ASL, in qualsiasi dannato ufficio. Questi vivono la mattina perché non dormono più, non sanno cosa fare, ma devono fare qualcosa e rallentano la giornata a tutti gli altri. Lasciamogliela a loro la mattina. Li lasciamo anche il posto aperto per far fare le cose a loro. Si divertono a modo loro. Vedila così. Dalle 6 al tocco il mondo in mano a vecchi. Poi cambia della guardia. Sembra uno scenario da fantascienza. Ma non troppo. Il concetto è che ci si dovrebbe svegliare naturalmente. Non con la sveglia. E andare a dormire quando ci sa sonno. Non quando si deve andare perché sennò si fa tardi la mattina. Quello può capitare, sì, ma una volta ogni tanto. Sai quanto stress ti risparmieresti? Invece no, ti devi fare 8 ore di sonno, ti devi svegliare 8 ore di ti devi svegliare 8 ore di produttività, poi ti mancano 8 ore di vita, che non sono mai 8 ore e non sono mai di vita, al massimo sono di inerzia perché non ce la fai più, ti passa pure la voglia di uscire. va bene tutto, ma come faresti a mettere in pratica tutto questo? Questo è un sogno. Ma io vorrei fondare un movimento di emancipazione dalla sveglia. Un movimento ombra, trasversale e clandestino, il cui unico obiettivo sia far sparire le sveglie da qualunque posto si trovino, levare ogni tipo di allarme da ovunque e mettere traumaticamente l'umanità davanti al concetto del tardi, finché non diventerà una prassi. Sponsorizzare, anzi, il ritardo come disobbedienza civile, farne un diritto inalienabile, il diritto di far tardi. E poi? E poi si guardi che succede, uno semina, poi si deciderà sul dal farsi, se uno di cosa crescerà. Il passo successivo potrebbe essere quello di iniziare a fissare appuntamenti a tradimento e non vengono rispettati. Oh, ma è 2 ore ti aspetto? Ma io ti ho detto ci si vede tra un po'. Lasciami respirare. Oppure, ma lei signore aveva un appuntamento un'ora fa, adesso c'è quello che è dopo. Lei va bene, passerò dopo. Magari mi fa una pernica. Secondo me si creerebbe una grande confusione. Tante realtà andrebbero in tilt. Ma per cambiare la mentalità devi mettere le persone davanti a fatto compiuto e far passare del tempo. Però guarda il lato positivo. Se entri in tilt, ci dormi sopra e te ne fa una ragione. E quindi? E quindi buonanotte. Thank you. Vai sul serio. Lo hai detto, hermano. No se scherza con Jesus. Abbiamo ribadito che non si è scherza con Jesus. Non si è scherza con Jesus, né con gli Alabama Shakes, né con il tasso, e il loro Hold On, e nemmeno con il tasso. Con nessuno si scherza. E pensavamo anche di intersecare vari insoldoni e prendercela con chi porta il cane fuori la mattina. Certo. Boom, e che magari combo, poi dopo aver portato il cane timbra il cartellino all'ATAF, sì. La sera prima è andata a letto presto dopo la partita, cioè dopo aver visto la partita. Giusto. Mattina sveglia presto per andare a portare fuori il cane, per andare a svolgere il proprio lavoro, insomma, da controllore sull'autobus. E dopodiché cosa c'era? Tornare allo stadio un'altra volta, a Pamplona, a vedere gli allenamenti. E a Natale, grande festa per tutti. Certo. Sì, sì, sì. Questo è il prototipo del nemico del tasso. È l'italiano tasso. Comunque, sulla critica alla mattina sono perfettamente d'accordo. Siamo tutti d'accordo. D'accordissimo. Forse, se qualcuno non è d'accordo, alzi pure la mano, prenda il microfono. No, lasciamo stare. No, lasciamo perdere e andiamo avanti come i treni. Sì, sì, sì. Treni sì. Tutto a posto, ancora non si è detto niente sui treni, vero? Però controllori dell'autobus varrà anche per controllori dei treni, lo vedremo la prossima volta. Che anche loro comunque. Sta bella rogna. Una vitaccia pure la loro, però. E adesso c'è la Kate, penso, che è tornata qua con noi e chissà che ci racconta. E quindi sigla, boh, sigla. Impastando si impara. Ciao ragazzi. Ciao Kate. Salve, tutto a posto? Tutto a posto. E niente in ordine. Bene. Oggi vi presento una ricetta che io adoro, perché appunto mi riporta ai miei luoghi natii, alle mie origini. Che è la caponata. Oh mamma. Sì. Che è la caponata? La caponata. La caponata da nonna. Innanzitutto, no, nonna no, no, non cucina. La nonna palermitana non le garbava tantissimo cucinare. Questa l'ho imparata, poi vi racconto. Ok. Innanzitutto facciamo un salto nel passato per capire l'origine di questa parola. Mi sembrerebbe interessante. La più antica referenza è il significato più diretto, viene dal greco, okay, che è kaptos, che ossia tagliato, e quindi probabilmente la presenza delle verdure tagliate a pezzi più o meno della stessa dimensione può avere origine dal greco, quindi kapto. La seconda ipotesi, un'altra scuola di pensiero ci riporta all'origine latina con il sostantivo cauponia, ossia cibo da taverna. Da taverna. Ah, ok, avevo capito taverna. No, da taverna, perché siccome la caponata appunto è un piatto molto semplice, diciamo... Umile e bello sostanzioso, sì. Veniva servito nelle taverne, marinai appunto... E quindi magari un'altra possibilità. L'ultima supposizione, che secondo me è la più plausibile, deriva da capone. Il capone in Sicilia è la lampuga, il pesce. E in pratica ho fatto una ricerchina nel XVII secolo, diciamo negli ambienti più adagiati, diciamo nella classe aristocratica, veniva cucinata questa zuppa di pesce con la lampuga, appunto il capone, in salsa agrodolce. E poi con il passare del tempo questa ricetta, siccome questo pesce era molto costoso e raffinato, viene sostituito dai ceti popolari con le melanzane. Ah, oh, ok. Quindi da capone, quindi caponata. E niente, allora di... Che dobbiamo fare per mangiarla? Che dobbiamo fare? Una premessa è che nell'isola conta più di 37 varianti. Ok, e oggi è servita come contorno, antipasto, ma appunto nelle epoche precedenti costituiva un piatto unico accompagnato con il pane. E poi cosa aggiuntiva? È anche un piatto vegetariano. Sì. Quindi accontentiamo un pochettino tutti. Anche oggi. Lillo. Anche Lillo. E di che cosa abbiamo bisogno? Allora, gli ingredienti sono... io purtroppo faccio tutta occhio, quindi ho fatto, diciamo... gli ingredienti sono molto approssimativi, diciamo, quindi, però credo vadano bene, diciamo. Allora, 3 melanzane belle ciccione, belle grosse. Poi 4 grammi, gambi di sedano, 200 grammi di olive verdi, noi le usiamo giù verdi, denocciolate però. 3 cipolle gialle, 50 grammi di capperi sotto sale, salsa di pomodoro, sale e pepe e poi zucchero e aceto di vino bianco per fare successivamente l'agrodolce. L'agrodolce, certo. Ok? Allora, primo step, che cosa facciamo? Cosa importantissima quando si cucinano le melanzane? Le tagliamo a tocchetti, appunto prima dicevo kaptos dal greco, no? Tagliato. Perché tutte le verdure sono tagliate più o meno della stessa dimensione a cubettini, ok? Quindi tagliamo le melanzane a cubetti e le mettiamo in uno scolapasta e le cospargiamo di sale. Perché così il sale agisce sulla melanzana e fa scolare tutto l'amaro, l'acquetta delle melanzane in eccesso. E le teniamo sotto sale per 45 minuti più o meno. Dopo questi 45 minuti sciacquiamo le melanzane, ok, sotto l'acqua corrente, le asciughiamo per benino e le friggiamo in abbondante olio di semi, belle, le facciamo dorare. Attenzione a asciugare le melanzane per bene, se no schizza tutto l'olio e si combina un macello. Le saliamo mentre sono in padella e le mettiamo in un piattino con dei tovaglioli per farle bere, scolare dell'olio, perché sono spugne le melanzane in sostanza. Sì, sì, sì, sì. Dopodiché, che facciamo? Laviamo tutte le altre verdure, le tagliamo a pezzettini, passiamo i capperi salati sotto l'acqua corrente per togliere il sale in eccesso. E che facciamo? A me la caponata, ecco, salto, poi vi spiego. Mia mamma è calabrese, quindi diciamo è una ricetta che ho imparato a fare dopo. Quindi io ho imparato da sola inizialmente, poi man mano chiedevo consigli giù in Sicilia alle vecchiette. Questo trucchetto me l'ha insegnato Anna di Porticello, grandissima donna, cuoca. Ciao Anna. Meravigliosa. Quindi che abbiamo fatto? Abbiamo tagliato le melanzane. Adesso che facciamo? Abbiamo tagliato il sedano a pezzettini, prendiamo un pentolino, lo riempiamo d'acqua e in questo pentolino mettiamo le olive, i capperi e il sedano e li facciamo bollire insieme per all'incirca 3 minuti. Dopodiché si scolano e si mettono da parte. Ok? Quindi okay. Capperi, olive e sedano. Ora che facciamo? Prendiamo una bella pentola. Prendiamo le cipolle, le tagliamo a fettine e le facciamo soffriggere in abbondante olio d'oliva extravergine e le facciamo ammorbidire bene bene bene bene. Quando sono belle ammorbidite mettiamo la salsa di pomodoro all'incirca, dipende quanto ne facciamo, metà bottiglia, tre quarti di bottiglia di salsa di pomodoro di okay. passata. Okay? Posso farci una domanda? Sì. Allora, noi prendiamo 3 melanzane, abbiamo detto. Sì. Per quanto riguarda invece il sedano e le olive, una quantità così. L'ho detto, 4 gambi, 4 gambi di sedano. 4 gambi, cioè perfetto. 4 coste, no gambi. Sì, sì, cioè, sì, sì, 4 sì, coste di certo. sedano, belle, belle grandi. Perfetto. E più o meno 200 grammi di olive. 200 grammi di olive, sì, bene. E 50 grammi di capperi. Benissimo. Poi i capperi non piacciono a tutti quanti, quindi folli. C'è chi non li mette. Io sì, all'inizio sì, sì. a me non piacevano e non li mettevo. Ora. Ho imparato. A me non piacciono, devo ammettere. E beh, se ne mettono pochino non si mettono, non fa nulla. Okay. Però eravamo arrivati alle cipolle. Sì, sì, le cipolle e la pomarola. La pomarola. Facciamo cuocere la pomarola e la dobbiamo condire normalmente, cioè con il giusto sale e un po' di pepe. Ok. Ok. Quando è diciamo a tre quarti di cottura la salsa di pomodoro, buttiamo dentro i capperi, il sedano e le olive che facciamo cuocere. È quasi a fine cottura, buttiamo dentro le melanzane fritte. Certo. Perché a fine cottura? Così non si spappolano e rimangono giusto. Più a tocconi. Alla fine dobbiamo fare l'agrodolce. Ora purtroppo io lo faccio a naso, cioè a seconda dell'odore che sento capisco se va bene oppure no. Quindi l'unica soluzione è che magari se lo volete imparare per bene vi dico mi chiamate, ve lo insegno, vengo io, vi faccio sentire. Però più o meno la dose è 2 cucchiaioni di zucchero mm-hmm. e un bicchiere intero di aceto di vino bianco. Okay. Quindi che facciamo? Prendiamo lo zucchero, lo mettiamo in un bicchiere insieme all'aceto, lo facciamo sciogliere e glielo buttiamo dentro. E dopodiché questo zucchero con l'aceto comincerà a caramellare un pochettino e si spegne. Ok. Questa perfetto. È la caponata versione palermitana, perché come dicevo prima mm-hmm. ce ne sono più di, cioè solo in Sicilia 37 varianti diverse. Noia. C'è quella messinese, quella catanese, quella bla bla bla, tipo a Catania dentro mettono anche i peperoni per esempio. O l'aglio, ho anche o altre con le noci. Anche con le noci. Però quella palermitana, diciamo, è tra le più semplici. Io ho imparato a fare questo e vi racconto questa cioè, qui. La tua pizza era di Enna, vero? Di dove era la versione? No, di Ragusa. Di Ragusa. Di Ragusa, ok. Deve essere molto buona. E quindi non è, cioè, c'è bisogno di un po' di tempo per fare la caponata, obiettivamente parlando. Purtroppo è così. Cioè, quanto tempo devi avere libero? due orette. Ok, ma ne vale assolutamente però la pena. Ne vale assolutamente la pena. Più che altro la camurria, come si dice da me, è friggere le melanzane. Certo. Poi la caponata, quando la cucino io personalmente, è bellissimo, perché è un viaggio proprio di odori, ragazzi, è una cosa allucinante, perché si comincia con il fritto della melanzana che ti si infila nel naso, poi si aggiunge l'odore del sedano, delle olive, dei capperi che stanno bollendo, poi la cipolla e un altro odore ancora col sugo, e poi quando vai a comporre la caponata è proprio una continua evoluzione di colori, odori. Soprattutto odori, sì. C'è da aprire la finestra poi, perché sennò poi... la comunque, svolta è... E cambiarsi i vestiti dopo. E cambiarsi, sì. In compenso ci ha fatto venire una fame. Cioè, a me sì, ha fatto io pure sto fame. Morendo di come fame. Come sempre. Sarà anche l'orario, alla fine dei conti. Infatti dobbiamo mettere... All'inizio. All'inizio. Però... Fa tutta la puntata con la fame, sì. E passa la paura. Una cosa, se vi ritrovate a fare... Cioè, oggi non abbiamo un cazzo da fare. Facciamo la caponata, abbiamo recuperato un bel po' di melanzane, cose... ne fate di più e la potete mettere benissimo nei barattolini, certo. Fare il sottovuoto e vi fate e la provvista in dispensa. Sì, in dispensa. Infatti io l'ho fatta quest'estate in grandissime quantità. Che gioia. L'ho fatto il sottovuoto nei barattoli e ce l'avrò per tutto l'inverno. Quindi tattico. Che poi quando è cenetta esci fuori il barattolino, hai il contorno con il tac, pane. E fai bella figura. Sì. Poi la caponata comunque va servita fredda, cosa importante, okay. Va servita fredda, proprio fredda, a me piace calda lo stesso, me la riscaldo ogni volta. Perché... Sarebbe da mettere nel frigo. Si contraddice. Quindi. Sì, mi contraddico, però a me piace così. È un po' zuzzurellona. E un'altra variante molto buona è con il pesce spada dentro, per esempio. Salutiamo il vegetarianesimo sì, e accogliamo il pesce spada. A braccia aperte proprio. Se la fate con il in pesce onore spada, all'origine filologica del nome, sì. col pesce esatto, giusto. Se la volete fare col pesce spada, che è poi tipica di Palermo, arrostite il pesce spada, lo tagliate a pezzettini e alla fine lo mettete dentro. E se volete aggiungete un poco di mentuccia fresca. Ok, perfetto. Viva. E quindi grazie. Viva la caponata. Grazie davvero tanto. Sì, oggi sì, vi lascio con un pezzo che è tratto dall'album Boogie Boogie Man del 2010. Il pezzo è A me mi piace il blues di Pino Daniele. Impastando si impara. Zitta, meu momento mi sfuga. Sono volgare, so che nella vita suonerò. Chi te ne complesse non ne può. A me mi piace il zucchero, c'è nito caffè. Con una presa d'anese, ma chi è meglio? Yeah. Non mi piace che tu vada in giro a importunare i nostri cittadini. Col tuo cognome da mezza sega. Con la tua faccia da mezza sega, con i tuoi modi da mezza sega. E non mi piaci tu, mezza sega. Sono stato abbastanza chiaro? Mi spiace, non stavo ascoltando. Oh, fottuto fascista! Sta lontano da Malibu, Lebowski! Sta lontano da Malibu, pezzo di merda! Tieni le tue schifose chiappe lontane dalla mia cittadina, brutto parassita! E rieccoci. Fottuti fascisti. Fottuti fascisti, sì. Alla fine noi siamo... vogliono il povero Drugo. Povero Drugo. A Malibu. ringraziamo la Kate che ci ha fatto venire fame come sempre. E, c'è qualcosa da raccontarci, amico? No, e alla fine fottuti fascisti ci sta a pennello, perché noi siamo comunque una radio antifascista e porta avanti gli ideali dell'antifascismo. E per cui sì, volevo giusto dire due cose, far sapere per chi non sapesse un po' quello è successo a Milano ieri, cioè la Forza Nuova che si è ritrovata, ha fatto un presidio all'Arco della Pace, cosa molto dibattuta, e il sindaco non voleva dare l'autorizzazione, invece poi la prefettura lo ha dato ugualmente, ma c'è stata una veloce e forte risposta dai compagni di Milano, che hanno fatto un presidio, circa 1500 persone sono ritrovate per dire no al fatto che persone del genere possano ritrovarsi e dire la loro, perché siamo per la libertà totale, ma le ideologie fasciste e naziste no, fuori, sono bandite. Io lascerlo a casa, dai. Sì, assolutamente. Razzista, quindi, in generale. Razzista, certo. In generale, sì, però in questo caso parliamo proprio di Forza Nuova, che è fascista e nazista, punto. Che e poi tutto quello che ruota intorno a questi due termini, no? Sì, che Forza Nuova, che è uno degli ultimi volantini, si chiedeva chi portasse la meningite, sì, in Italia, e si rispondeva agli immigrati. Vabbè, lasciamo perdere. E... assurdo. Vabbè. Diamo quindi solidarietà ai compagni di Milano che hanno fatto presidio, anzi poi sono riusciti ad andare anche in corteo, è andato tutto bene a quanto sappiamo. E nel mentre, parallelamente, sempre parallelamente, su questa, sì, onda rossonera dell'antifascismo, a Berlino oggi si tiene per il 98esimo anniversario della morte di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. Come cazzo? Lui, vai, lei, come cazzo? Che furono assassinati nel 1919. E c'era una manifestazione contro lo sfruttamento, la guerra e l'imperialismo. a cui partecipano sigle del antifasciste come l'SDA, cioè la Gioventù Socialista Operaia Tedesca, e il DKP, la giovanile del Partito Comunista Tedesco. Però, visto che noi poi bene esatto, non li conosciamo, e potremmo chiedere al nostro... ci abbiamo un inviato. Esatto, Berlino. Infatti lo dicevo proprio per questo, per invitare anche il nostro inviato che ci sentirà, di dirci un po' se lo ha vissuto o insomma cosa è successo. Se ha visto qualcosa, esatto. Se ne ha parlato, insomma. Esatto, sarebbe molto interessante appunto sapere un po' anche l'andamento dell'antifascismo europeo. Ecco. Della serie Grandi Reportage di Fuoco alle Polveri. I Grandi Reportage di Fuoco alle Polveri. Mizzica. E i Grandi Inviati. E quindi, insomma, niente. Ok. Per questo ci rifacciamo più in là. Sì, ecco. sì. Però antifascismo sempre, soprattutto qui su Radio Wombat e Fuoco alle Polveri. E Fuoco alle Polveri. A questo punto direi che... Direi che ci abbiamo dei consigli. No, non sono consigli in realtà oggi. C'è Lillo che ci dà il detto del giorno. E dai. Buonasera. Ciao Lillo. Ciao Bricco. Ciao. Siamo qua per il detto della settimana, giusto? Evviva. Sì. Allora, questa settimana qua va bene, il detto riguarda un giorno specifico, però cade in questa settimana, quindi noi lo diciamo oggi. Cade esattamente il 20, va bene, che sul calendario diocesano, no, vabbè, sul calendario nostro, gregoriano, sul calendario gregoriano, no, non so, il nostro calendario, cade San Sebastiano. Il proverbio dice così: per San Sebastiano un'ora abbiamo. Significa semplicemente che dunque il giorno più corto dell'anno è il 21 dicembre, che cos'è il solstizio, giusto? Sì. Solstizio d'inverno. Dovrebbe. E anche Santa Lucia. Che anche Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, in verità Santa Lucia, se non mi sbaglio, è il 17. E quindi è tutta una truffa, praticamente. Il che è tutta una truffa, sì. C'è tutto un discorso dietro sulle, mi sembra che... Sulle truffe. Sulle truffe, sì, sulle truffe del tempo. Comunque, per San Sebastiano sono passate circa un mese, abbiamo già guadagnato un'ora di luce, signori. Wow! Un'ora di luce in più nelle nostre giornate. Un'ora di luce potremo usare come preferiamo, possibilmente da passare fuori alla luce. Te che fai, Calino? Ma io un'ora di luce in più cerco di stare fuori, ma fa troppo freddo. Fa troppo freddo. Va bene, allora quell'ora in più passatela in compagnia. E adesso andiamo a festeggiare quest'ora in più che tra poco arriverà. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Eccoci qua, siamo praticamente alla fine di questo podcast. Anche per oggi anche la miccia sta finendo. La miccia sta finendo, però nonostante la neve e le peripezie ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Sì, sì, evviva. Senti, direi che potremmo mandare un ultimo pezzo per salutare tutti i nostri fedelissimi ascoltatori. Sì. E poi vi salutiamo, insomma. Goran Grebovic. Great Britain. Great Britain. Great Britain. Great. Rieccoci. Burgridge. Davvero verso la fine. Verso la fine, sì, non ci siamo però dimenticati di una di un evento che è successo e che volevamo parlare. Sì. Di un fatto che è successo a Sesto Fiorentino. In settimana è preso fuoco un capannone, l'ex Aiazzone, che era occupato da più di 100 migranti, richieste d'asilo, profughi, e ha preso fuoco e un uomo è morto rientrando dentro il capannone per andare a riprendere i documenti per il ricongiungimento familiare con appunto la sua famiglia, documenti per cui in Italia ci vogliono mesi e mesi e soldi per ottenerli, e quindi sono di vitale importanza per moltissime persone. Non ne abbiamo parlato perché ci interessava parlarne con chi sta lavorando sul campo ha lavorato sul campo in questi anni e lo sta continuando a fare in questi giorni di difficoltà enorme, e quindi speriamo la prossima settimana di parlarne in modo più approfondito. Sì. Intanto c'era da dire che sulla pagina Firenze dal... Allora, premesso, c'è bisogno di coperte, vestiti e penso anche viveri in generale? No, non ci è stato detto. Probabilmente sì, no, penso che comunque, ci sia la misericordia, forse sta facendo queste cose qua. Comunque probabilmente appunto per le coperte e vestiti c'è bisogno, perché ha preso fuoco tutto. E quindi se qualcuno vuole partecipare a questa cosa, iscriverà la pagina Facebook di Firenze dal Basso per mettersi in contatto e appunto poter dare qualcosa per questa situazione. Assolutamente. Donate, come si suol dire. Esatto, esattamente. Donate. E per tornare a dire un po' le cose come le diciamo qua, Detto questo, ci salutiamo tutti, ringraziamo tutti, anche la regia che appunto oggi manca Andre perché a godersela ad Amsterdam, ma Marchino ci ha dato grande mano. E vi salutiamo con la nostra sigla. Ciao. Ciao. Venivo? No, no, ite anche voi senza meta, ma da un'altra parte. Via.